Piazza 24, i gialli della storia. Un camion così piccolo che si stentava a caricarvi le opere di grande mole. Ma Sassocoparo intervenne con tutte le sue meravigliose possibilità per aiutarvi. E tutta la popolazione concorse per rendervi possibile di attuare nel giro di poche settimane un lavoro imponente. ...1938, una sola cosa Hitler invidia al suo alleato italiano: il più grande patrimonio artistico del mondo. Già molti capolavori, per ordine di Mussolini e Ciano, avevano preso la via di Berlino. Oggi a Mix 24 raccontiamo la storia di un uomo che, prima ancora della sua vita, sceglie di salvare i capolavori italiani in un modo che sembra un giallo. Quest'uomo si chiama Pasquale Rotondi, lo Schindler italiano. Questa è la sua storia. Quando nel 1939 la Germania invade la Polonia, è chiaro a tutti che l'Italia non potrà essere risparmiata. L'allora ministro dell'educazione Bottai si pone subito il problema di come salvare le opere d'arte dal rischio di bombardamenti e decide di concentrare tutto in un luogo da dichiarare città aperta. Il luogo prescelto è Urbino e l'uomo che dovrà occuparsi di questo salvataggio si chiama Pasquale Rotondi. Urbino sembrava la città ideale per conservare questo patrimonio, ma nessuno tenne conto del fatto che in Urbino c'era un grande deposito dell'aeronautica di materiale bellico e che perciò non poteva Urbino essere dichiarata città aperta come il ministero si proponeva di fare. In quel periodo Rotondi gira a bordo della sua balilla con l'autista Augusto Pretelli alla ricerca di un luogo adatto al ricovero delle opere d'arte. Ma il tempo passa e l'edificio adatto non si trova. Poi una sera, dopo un'altra giornata di ricerche, la sua balilla sale verso il borgo medievale di Sassocorvaro e lì Rotondi vede la rocca, una costruzione del 400 che risponde alle sue necessità. Questo fortilizio stupendo del 400, robusto, ma soprattutto con una sua caratteristica di essere tutto concentrato nella sua linea circolare. Quindi un obiettivo difficilmente raggiungibile qualora vi fossero stati dei bombardamenti dall'alto. La scelta viene approvata dal ministero e dovrebbero arrivare anche i fondi per realizzare il progetto. Rotondi intanto incontra le autorità e con l'aiuto di pochi collaboratori organizza lo spazio per raccogliere le opere. Lavoravo solo, non avevo come collaboratori che alcuni custodi della galleria di Urbino. Non avevo disponibilità, avevo però un grande personaggio, perché così voglio chiamarlo, il mio autista di Urbino, Augusto Pretelli, con una sua sgangherata piccola macchina, una balilla, una vecchia balilla. A Sassocorvaro dunque è tutto pronto. È il giugno del 40, con le truppe naziste che dilagano in tutta Europa, la guerra si fa sempre più vicina anche per l'Italia. È il momento di dare vita all'operazione salvataggio. Con i pochissimi mezzi a disposizione, Rotondi comincia il trasferimento. Ma un bel giorno io mi trovavo al furlo. Passavo per il furlo con questo camion carico. Ho visto della gente intorno a degli altoparlanti e ho sentito la voce del dichiaratore di guerra. La dichiarazione dichiarazione di guerra è già stata consegnata. E Rotondi capisce che ormai il tempo stringe, l'operazione salvataggio deve essere conclusa al più presto, prima che il fronte arrivi in Italia. Un camion così piccolo che si stentava a caricarmi le opere di grande mole. Ma Sassococlaro intervenne con tutte le sue meravigliose possibilità per aiutarmi. E tutta la popolazione concorse per rendermi possibile di attuare nel giro di poche settimane un lavoro imponente. I camion viaggiano notte e giorno trasportando casse anonime, mantenendo su tutta l'operazione la massima segretezza, e anche nei documenti di viaggio la località di Sassocorvaro non viene mai citata col nome giusto. Nell'agosto del 40, a soli 2 mesi dallo scoppio della guerra, Sassocorvaro ospita già 77 casse di opere d'arte. Tra queste, i capolavori di Tiziano, di Rubens, di Lorenzo Lotto e del Perugino. Tra gli addetti ai lavori comincia a spargersi la voce. L'operazione salvataggio sta funzionando e a visitare il ricovero giunge Rodolfo Pallucchini, ispettore della sovrintendenza di Venezia, come racconta Pasquale Rotondi. Rimase straordinariamente impressionato da questa organizzazione del ricovero che io avevo attuato, e subito dispose perché anche da Venezia arrivassero a Sassocorvaro i grandi capolavori dei musei e delle chiese veneziane. Il 16 ottobre del 40 arrivano a Sassocorvaro da Venezia 54 casse e 16 rulli contenenti più di 100 opere d'arte di eccezionale valore artistico. Tra queste la Tempesta del Giorgione, il quadro più raro e suggestivo che ci fosse in Italia. Con l'arrivo delle casse da Venezia, la consistenza del ricovero arriva fino a 132 casse e 34 rulli. Intanto l'avanzata dell'Europa in Germania continua, e continua anche il lavoro di salvataggio di Rotondi nel più assoluto silenzio. Nel 1941 la Germania comincia l'operazione Barbarossa, tesa all'invasione della Russia. Ai nazisti si affiancano anche le truppe italiane con il corpo speciale dell'Armir. E con la guerra ancora lontana, Rotondi prosegue la sua opera di controllo e sorveglianza. Le casse venivano aperte, si aveva sempre la grande soddisfazione che tutto era a posto. Le sorti della guerra stanno cambiando. La controffensiva inglese in Africa costringe alla resa le truppe italiane. L'11 dicembre inizia l'attacco sovietico a Stalingrado. Le truppe italiane dell'Armir vengono accerchiate e decimate sul fiume Don. La sconfitta tedesca in Russia è un punto di svolta della Seconda Guerra Mondiale e d'improvviso la vittoria nazifascista non è più così sicura. Da tutta Italia i responsabili dei musei, delle sovrintendenze, prendono contatto con Pasquale Rotondi. Hanno paura, paura per i loro tesori, e cercano un rifugio sicuro per le opere d'arte. Ma Sassocorvaro è ormai al completo. E si fa strada l'esigenza di creare nelle Marche un secondo rifugio. E Rotondi ha già in mente il luogo giusto, il Palazzo dei Principi di Carpegna, a pochi chilometri da Sassocorvaro. Tra aprile e giugno del 43 arrivano a Carpegna una grande quantità di capolavori: il Caravaggio della Chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma, Raffaello Piero della Francesca, Bramante da Milano, la preziosissima Pala d'Oro da Venezia. Sicché a un certo momento del periodo bellico mi sono trovato custode di una massa di capolavori, 3.800, erano opere di pittura, scultura e arti minori. E 4.000 pezzi erano costituiti da materiale bibliografico e archivistico. A questo punto Pasquale Rotondi intensifica la sua attività di controllo. Rotondi passa da un ricovero all'altro. Ha paura dei furti, dello stato di conservazione delle opere e delle notizie sempre più preoccupanti che vengono dal fronte. Il 10 luglio del 1943, gli alleati sbarcano in Sicilia, i tedeschi provano a resistere, poi, di fronte alla superiorità del nemico, decidono di ritirarsi. Ieri Mussolini è stato destituito e tratto in arresto dal re dopo la drammatica seduta del Gran Consiglio, sulla quale corrono in Urbino voci molto imprecise e contraddittorie. Sua maestà il re e imperatore ha accettato le dimissioni presentate da sua eccellenza il cavaliere Benito Mussolini. Ho telefonato a Sasso Corvaro e a Carpegna. I custodi sono contenti perché ormai finita la guerra potranno tornarsene a casa. Ho raccomandato prudenza e che continuino a far buona guardia. Con l'armistizio dell'8 settembre la guerra sembra finita e si può immaginare un ritorno alla normalità, ma non è così. Il caos, l'incertezza sono diffusi anche Pasquale Rotondi e la sua battaglia per la salvaguardia delle opere d'arte che ha raccolto continuano nuovi problemi. Dopo l'8 settembre c'è stato un momento di grande smarrimento. Avere la responsabilità della custodia di una quantità così notevole di grandi capolavori, ma non avere più qualcuno al quale potessi rivolgere nel caso di necessità. Intanto a Bergamo i tedeschi hanno fondato un'istituzione culturale per la protezione delle opere d'arte, il Kunsthaus. Ma dietro questa facciata c'è l'intenzione di trafugare, di rubare il maggior numero possibile di capolavori artistici per portarli in Germania. Rotondi intuisce il pericolo e ha un'idea geniale. Io avevo avuto l'accortezza di portar via da tutti gli imballaggi le indicazioni del loro contenuto. Questa è stata veramente una mia idea provvidenziale. Tra il materiale archivistico c'erano le lettere e i manoscritti musicali di Gioachino Rossini. Si sono accaniti in particolare su una delle casse che contenevano appunto i manoscritti di Rossini. E quando hanno tirata fuori una carta scritta da Rossini, hanno detto in tedesco, cartace. E pensare che la cassa a fianco conteneva il tesoro di San Marco. Ho avuto molta fortuna e molta paura. Rotondi è veramente disperato, anche perché non ha nessuno a cui chiedere consiglio. E allora decide da solo di trasferire tutto quello che c'è alla rocca di Sasso Corvaro, visto che i tedeschi non sono ancora arrivati a Urbino. Abbiamo in gran fretta rimosso dagli imballaggi tutte le opere più preziose che la balilla poteva caricare nel piccolo portabagagli e sui sedili posteriori. Le abbiamo avvolte in morbide coperte che io mi ero portate da Urbino. Con il preziosissimo carico Pretelli e io siamo partiti. Ma giunti verso sera alle porte di Urbino, ho trovato mia moglie Zea che mi stava aspettando per avvertirmi che nel paese c'erano molte pattuglie delle SS alla ricerca di automezzi e munizioni. E quindi trovarmi costretto con quel carico di capolavori a ripiegare verso una piccola villa nelle vicinanze di Urbino, la Tortorina, e scaricare lì questi capolavori e nasconderli nella mia camera da letto e dormire con essi, ecco, quello fu un momento in cui non posso negare che ebbi veramente paura. Rotondi passerà i giorni seguenti convivendo con una serie di capolavori straordinari, passando le notti in contemplazione di una collezione capitata per caso a casa sua. Dopo qualche giorno, quando le SS avranno lasciato Urbino, le opere sono trasportate al Palazzo Ducale. Ma resta ancora il problema delle casse custodite a Palazzo Carpegna. Rotondi non ha autorità per chiederne la custodia e tantomeno per trasportarle per l'Italia. Tutto sembra perduto quando gli arriva un aiuto insperato da Venezia. Il patriarca di Venezia lo autorizza al trasporto delle opere del Vaticano nella sede di Urbino. Ma bisogna convincere i tedeschi a consegnargli le casse. Dopo alcune ore di attesa in cui Rotondi e il suo autista stanno mettendo in gioco le loro stesse vite, arriva il permesso per il trasporto delle casse. Ma solo quelle che contengono il materiale del Vaticano. E allora l'idea di aver reso irriconoscibili, come Rotondi ha fatto, i contenuti delle casse diventa provvidenziale. Dopo molti tentativi vani, quando ormai si stava per rinunziare all'impresa, ecco finalmente un camionista disposto a fornirci un autocarro. Abbiamo proceduto al carico stipandolo di casse, non solo quelle col tesoro di San Marco e le opere della Chiesa di Venezia, ma anche quelle contenenti opere di Milano e Roma. Ripartiti da Carpegna col consenso dei tedeschi, l'autocarro ha fatto una deviazione per Sasso Corvaro per caricare la predella di Paolo Uccello e quante più opere possibili. Dopodiché, con l'intero carico così faticosamente recuperato, abbiamo proseguito felicemente per Urbino, giungendo a sera nel cortile del Palazzo Ducale. Naturalmente, neppure aver nascosto tutte le opere ad Urbino significa averle messe definitivamente al sicuro. Pasquale Rotondi sa benissimo che oltre ai bombardamenti alleati, il vero rischio è costituito dalle razzie sempre più frequenti e sempre più massicce dei tedeschi, che sono decisi a depredare l'Italia di tutti i tesori possibili per arricchire le collezioni private di Hitler e di Göring. Rotondi è isolato a Urbino, ma è cosciente che la guerra si sta avvicinando. Ma alcuni funzionari del Ministero dell'Educazione, che non hanno aderito alla Repubblica di Salò, decidono di impegnarsi per la salvaguardia del patrimonio artistico italiano, insieme a Rotondi. Il professor Argan, il professor Lavaglino, il professor Romanelli, il professor De Angelis Dossat. Sarà lo stesso Giulio Argan a verificare la disponibilità del Vaticano, come ci racconta l'abate di Monte Cassino, Bernardo D'Onofrio. Questa operazione fu stimata e lodata da tutti, che il Vaticano, nonostante la posizione molto delicata che assumeva in quel tempo, fu di sommo giovamento e di somma intuizione a salvare nelle sue mura ciò che era salvabile di questo patrimonio dell'Italia messo a gravissimo rischio dalle incursioni alleate e da forse anche vendette dei tedeschi che si ritiravano. Quindi se dobbiamo dire un grande grazie, lo dobbiamo dire a Papa Pio XII e ai suoi collaboratori, tra cui Tardini, Montini, Cicognani e il Cardinale Maglione. A Urbino Rotondi è in attesa frenetica che arrivi il camion che trasporterà le opere. L'indomani infatti arrivarono prima di tutti Emilio Lavagnino, l'ispettore centrale del Ministero, mio grandissimo amico, insieme con alcuni funzionari del Ministero, ricordo qui in particolare il dottor Nicoletti, un gruppo di facchini per procedere al carico delle opere e un sottufficiale delle SS, il tenente Scheibert. L'ufficiale dell'SS dovrà essere tenuto il più lontano possibile da questa operazione, né dovrà ricevere in consegna nulla. Su questo punto mi dichiaro irremovibile. Io consegnerò le opere soltanto a Lavagnino e Nicoletti. Soltanto loro dovranno firmare il verbale sul quale non dovrà comparire in nessun modo il nome dell'ufficiale tedesco. Il 23 dicembre del 43 gran parte delle opere salvate da Pasquale Rotondi è finalmente al sicuro dentro le mura del Vaticano. Tutto sembra essersi risolto per il meglio, ma intanto il fronte avanza verso nord e Rotondi adesso si mette all'opera per salvare anche il patrimonio artistico locale. L'operazione di salvataggio ricomincia da capo. È ancora più pericoloso visto che tutta la zona è sotto il controllo tedesco. La nuova lista di Rotondi comprende 127 casse, un baule e 3.000 volumi. Quando anche la Rocca di Sasso Corvaro si troverà al centro di numerosi bombardamenti, le sue mura, come aveva previsto lui, resisteranno e le opere saranno protette. Il 9 settembre del 44 gli alleati liberano Urbino. Le truppe americane e con esse un reparto di nostri soldati sono entrate in Urbino. Quindi hanno raggiunto Sasso Corvaro liberando il borgo e la rocca. Un sospiro di sollievo. Questa sarà probabilmente stata la reazione di Rotondi quando a guerra finita tutte le opere d'arte che ha salvato sono tornate ai legittimi proprietari. Ma questa è anche una vicenda rimasta sconosciuta, eroica e sconosciuta. Solo nel 1984 l'allora sindaco di Sasso Corvaro, Oriano Giacomi, ha scoperto per puro caso la storia di Pasquale Rotondi, di questo scinder dell'arte che ha messo la sua vita al servizio della salvezza del patrimonio artistico italiano. Quando venne a sapere di questa vicenda, lì per lì non ci credevo, non mi sembrava una cosa strana, perché primo perché non avevo mai saputo niente, secondo così grande che mi sembrava impossibile, invece era vero. E quindi mi misi a cercare il professore Pasquale Rotondi, non sapevo dove trovarlo. Lo vidi apparire dalla strada del Vaticano, venendo verso Cappella Sistina, quindi avendolo immaginato come me l'avevano raccontato che era lui, mi avvicinai con, ripeto, tanto timore, anche un po' di paura, e quindi gli chiesi se lui era il professor Pasquale Rotondi. Lui si girò di scatto e disse: ma lei chi è? Io sono il sindaco di Sasso Corvaro. A quel punto capì che era lui, perché nei suoi occhi si illuminarono e mi disse: è vero che qualcuno si ricordasse di quella storia? Kiss me sweet.